17 e 6 minuti, ci scusiamo per qualche disguido tecnico, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, qualche problema, come avete sentito non c'è la sigla, sì, abbiamo qualche problema tecnico, ma noi siamo qui per raccontarvi, anche senza basi musicali, la giornata economico-finanziaria. Un buonasera quindi da Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di cui ci occuperemo in questa puntata di Focus Economia. Inizieremo raccontando quello che è lo scontro, non in questo caso che non riguarda la regione Sicilia ma la regione Calabria. Il tema è la spesa sanitaria, le dichiarazioni vanno già ricordate nei nostri GR del Presidente del Consiglio Berlusconi, il quale ha sostanzialmente contestato il deficit sanitario della regione Calabria e ha detto che si andrà verso il commissariamento è necessario, replica del Presidente della Regione Calabria Loiero, Agazio Loiero. In realtà non entreremo nella polemica politica, ma nel tema sì, perché più volte abbiamo ricordato come il 90 e passa per cento del deficit sanitario italiano sia attribuibile a quattro, a questo punto con la Calabria 5 regioni, nel caso specifico poi la parte più grossa se la giocano Lazio, Calabria e Campania e Sicilia, mentre le altre regioni coinvolte sono anche, tra le regioni coinvolte c'è anche il Molise, ma in sostanza il buco della Campania ammonta a 1.200.000.000 di euro. Lazio e Abruzzo, vabbè, l'Abruzzo in questo periodo chiaramente vive una condizione particolare, sono già state commissariate. Il Lazio sta cercando di colmare il suo buco da 1.700.000.000 di euro. Poi c'è la Campania che ha toccato 1.200.000.000 e la Sicilia che ha fatto 120 milioni di disavanzo più 220 di rosso stimati per il 2009 e dovrebbe evitare il commissariamento con un piano di risanamento soddisfacente. Vedremo se ce la farà, anche perché mi sembra che abbia altri problemi la giunta siciliana. La Calabria, a questo punto, il disavanzo complessivo accumulato supera i 2 miliardi di euro, cioè 800 milioni, 900 milioni fino al 2005, 800 milioni tra 2006 e 2007, 320 milioni nel 2008. Queste 4-5 regioni hanno praticamente tutto il deficit sanitario italiano, che è praticamente 3 miliardi e mezzo di euro, di fronte a un costo della sanità che in Italia è pari a 103 miliardi di euro l'anno. E soprattutto non si capisce perché alcune regioni sforino di centinaia di milioni l'anno il budget previsto e regioni anche limitrofe, penso alla Puglia ma non solo, penso alla Toscana, all'Umbria, per non parlare del nord Italia, a parità di servizi erogati, per non parlare poi della qualità del servizio erogato, riescono a stare più o meno bene dentro i tetti di spesa previsti. Misteri della sanità che cercheremo di chiarire, e non ci occupiamo della parte, diciamo, che ha a che fare con la criminalità o eventuali reati perseguibili dalla giustizia. Stiamo parlando di deficit, di gestione deficitaria a livello strutturale. 349-238-6666 per i vostri sms. Poi tratteremo anche il tema dell'energia. Per la prima volta, infatti, dal dopoguerra è calata, c'è una previsione di calo della domanda di energia. E ancora, mentre il petrolio, sì, oggi ritraccia leggermente, ma è sempre sopra i 60 dollari al barile. Poi i mercati finanziari come sempre, ma anche la vicenda che riguarda i vertici. Ci sono stati due vertici importanti nel fine settimana. Il Financial Stability Forum, presieduto da Mario Draghi, ha avuto diverse indicazioni arrivate da vari banchieri centrali. Nel frattempo, sempre nel fine settimana e per la precisione sabato a Venezia, si è tenuto il vertice Aspen, in cui si è analizzato lo stato dell'arte, lo stato di salute dell'economia globale, e qualche indicazione interessante emerge, per esempio che gli aiuti dei governi in questo momento arrivati ai vari paesi, cioè la somma complessivamente messa in campo da tutti gli stati, è pari a 4 volte quella messa in campo in un anno ai guadagni derivati da tutte le privatizzazioni effettuate nel mondo dal 1970 adesso. 1.500 miliardi di dollari infatti è quello che gli stati hanno guadagnato privatizzando, 6.000 miliardi è quello che tra garanzie, investimenti e salvataggi è stato speso solo nell'ultimo anno di crisi. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve, adesso tutto come da programma e quindi anche con la nostra base. Ripartiamo dalla borsa che inizia la settimana debole, incerta, ma nulla di preoccupante, perlomeno finora, meno 0,3% il MIB, tale anche l'S&P MIB, più 0,2% Parigi, meno 0,1% Francoforte e ancora Londra più 0,4%, l'America invece perde, e Londra sono le chiusure della settimana scorsa, perché oggi sia Wall Street che la City sono chiuse in Gran Bretagna per Bank Holidays. Ed è anche l'assenza di Wall Street che lascia le borse più incerte rispetto al solito. L'euro invece si conferma 1,40 nei confronti del dollaro e quindi sempre su livelli forti. Geox è il peggior titolo oggi, perde il 3,2%, Mondadori il 2,80%, Atlante meno 2,30%, il 2,1% lo perdono Buzzi, Unicem, la Popolare di Milano, la Campari, Ansaldo meno 1,90%, Fondiaria meno 1,6%, come Monte dei Paschi, 1,5%, lo perde Fiat, e anche di Fiat daremo aggiornamenti, 1,5%, dicevo, lo perde Fiat, ma anche Pirelli, Snam Rete Gas perde l'1,1%, chi guadagna? Saipem più 2,4%, Bulgari più 1,5%, Parmalat più 1,2%, Luxottica più 1%, Autogrill più 1%, Enel più 0,70%. Al 349-238-6666 volete già sapere di Fiat, vi daremo aggiornamenti quotidiani, però attenzione che la partita è tutta da giocare, come avete anche letto, e soprattutto fino a mercoledì siamo ancora a un livello molto molto interlocutorio, e dopodiché la cronaca di Fiat registra su Opel registra ogni giorno nuovi sviluppi. Alcuni di voi fanno notare via SMS che si parla sempre della Germania, del governo di Angela Merkel, si parla molto meno di General Motors, avete ragione, ne è stato anche scritto, di fatto il proprietario di GM Europe e quindi di Opel è la General Motors americana. Il governo tedesco interviene perché quando c'è un tema occupazionale, esuberi, quante fabbriche dovranno ridurre gli occupati, intervengono anche i governi, però la decisione è dell'azionista, quindi dell'azionista americano. Lì alcuni si sono spinti a dire potrebbe esserci un vantaggio per Fiat visto il rapporto già intrattenuto con Barack Obama per la vicenda Chrysler. Ma perché in realtà General Motors teme molto la concorrenza di Fiat in Sud America? Pro e contro. Quello che è certo è che domani Sergio Marchionne incontrerà il numero uno tedesco Angela Merkel, la cancelliera tedesca Angela Merkel della CDU, e domani ci sarà anche, da quello che anticipa la stampa tedesca, John Elkann nell'incontro con Angela Merkel e anche tra l'altro col ministro tedesco all'economia Gutenberg. Il super vertice sarà, a questo punto le agenzie battono tra martedì e mercoledì, in realtà sembrerebbe che vi sia un primo incontro domani dell'Angela Merkel, poi anche col Ministero dell'Economia, poi di nuovo mercoledì un super vertice sul futuro della Opel con tutte le offerte presenti. E quindi da Fiat con Sergio Marchionne, i vertici della Magna, dell'austro-canadese Magna e del fondo Ripplewood, oltre ai rappresentanti del governo americano, ai ministri tedeschi competenti e ai governatori delle regioni in cui si trovano gli impianti della casa automobilistica. E sarà, da quello che si è capito, il vertice decisivo, salvo poi modifiche. Perché? Perché oggi il portavoce del governo tedesco ha detto: la Germania sceglierà quale, il governo tedesco sceglierà quale offerta appoggiare, non può dire di sì perché, ripeto, l'offerta deve essere accettata dall'azionista, ma quale offerta appoggiare verrà deciso entro la metà di questa settimana, quindi mercoledì. Tra l'altro il governo tedesco ha anche detto che vuole evitare un'insolvenza della Opel e quindi vuole arrivare comunque a una buona soluzione per la Opel. Sempre oggi il portavoce del governo tedesco, che ha parlato tantissimo, ha detto che i due piani più complessi sono stati quelli presentati da Fiat e dal gruppo austro-canadese Magna. Ancora, secondo il tabloid Bild, che cita fonti governative, il governo tedesco preferirebbe ancora l'offerta del gruppo Magna per acquisire la Opel. Le dichiarazioni sono state sul fronte italiano quelle del presidente di Fiat Montezemolo, che ha detto: il piano è chiaro, l'importante è stare fermi sul piano, che è molto interessante, e non sbilanciarsi. Staremo fermi sul piano presentato da Marchionne e dai suoi collaboratori. Il presidente del Consiglio Berlusconi ha detto: non interferisco, ma sono sicuro, ma mi fido, perché so che sarà una scelta oggettiva e non ci sono pregiudizi, non ci sono motivazioni di antipatia verso una o l'altra azienda. E dopo le aperture del ministro Sacconi, ma anche della CIS, è oggi la volta della presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che si è appellata a CGIL e FIOM, a cui è stato riconosciuto da Emma Marcegaglia l'atteggiamento responsabile sul territorio per gestire la crisi, affinché si possa lavorare assieme per rinnovare i contratti senza conflitti e senza difficoltà. Lo ha detto appunto Emma Marcegaglia oggi a margine dell'Assemblea degli Industriali di Varese. La CGIL sta gestendo la crisi sul territorio insieme agli altri sindacati, insieme a noi. È importante che in un momento come questo di difficoltà, dove la coesione sociale è essenziale, si lavori tutti insieme proprio per evitare che ci possa essere l'innesco del conflitto sociale. Quindi lavoriamo insieme, facciamo in modo che poi i contratti vengano comunque rinnovati senza difficoltà, perché dobbiamo dare delle risposte ai lavoratori. E sempre sul tema della crisi in corso, la parte economica della crisi, ha detto la Presidente Confindustria che, se necessario, Confindustria chiederà un allungamento della cassa integrazione ordinaria, mentre, e lo ha fatto sempre al microfono del nostro Stefano Totoro, è tornata anche sulla necessità di portare avanti le riforme, indicando, dopo l'appello in assemblea la settimana scorsa rivolto al Presidente del Consiglio, quali riforme siano prioritarie per Confindustria. Sicuramente la riforma della pubblica amministrazione e il taglio degli enti pubblici inutili. Certamente noi pensiamo anche che anche però la riforma delle pensioni, nel modo giusto, parlandone, però è un fatto che va fatto, perché noi siamo completamente sbilanciati e andando avanti così non riusciremo nemmeno a pagare le pensioni a chi ne ha diritto. Sono ancora troppe le aziende che sono in difficoltà, non riescono ad avere fidi, si vedono revocare fidi, non riescono a scontare le fatture, pagano tassi troppo alti, quindi noi facciamo proprio un appello al sistema bancario perché sia vicino alle imprese, perché se non lo fa adesso noi rischiamo di perdere una parte del nostro sistema produttivo e questo avrebbe un costo enorme per tutta l'economia. Restiamo in Italia, sempre per la cronaca di oggi. L'antitrust ha multato ancora Telecom Italia e Vodafone per pratiche commerciali scorrette. Ha sanzionato Telecom per 200.000 euro in merito alla campagna pubblicitaria relativa all'offerta Alice senza canone, e Vodafone per 260.000 euro in relazione alla promozione di servizi di telefonia fissa in modalità ADSL, anche in questo caso con l'offerta Vodafone Casa. Della giunta siciliana vi hanno già ampiamente parlato i nostri GR, anche extra large, nel senso che il governatore Lombardo ha azzerato la giunta. Noi restiamo al sud e sempre di regioni parliamo, però parliamo di sanità. Lo spunto oggi ci viene offerto da un botta e risposta tra il presidente del Consiglio Berlusconi e il governatore, il presidente della regione Calabria, Agazio Loiero. Sì, vedo già molti sms, adesso arriveremo anche ai costi, ai casi eclatanti, però ribadisco, il deficit complessivo che viaggia intorno ai 3 miliardi e mezzo di euro della sanità in Italia è riconducibile a 5-6 regioni, ma insomma, se leviamo il Molise che ha 110 milioni comunque da solo, il Lazio ha 1,7 miliardi che sta cercando di, aumentando l'IRPEF e l'IRAP, di recuperare, anche perché è già stata commissariata la sanità laziale. La Campania ha 1,2 miliardi, quindi siamo a buona parte. La Sicilia ha 120 milioni di disavanzo nel 2008 e 220 di rosso stimati per il 2009. Complimenti per la progressione. E quindi anche qui si viaggia intorno ai 350 milioni di euro. E il Molise 113 e poi la Calabria, che adesso abbiamo scoperto ha un disavanzo complessivo che supera i 2 miliardi di euro. Sarà anche per alcune chicche, usiamo il termine chicche, ma verrebbe da piangere, l'ospedale di Taurio Nova, 18 posti letto e 174 dipendenti, penso che nemmeno nelle cliniche svizzere vi sia una media di 10 dipendenti per posto letto. Immaginiamo che il servizio comunque sia all'altezza. L'ospedale di Vibo Valentia ha costi totali di 49 milioni e un deficit di 26 milioni, cioè c'è un deficit che è metà dei costi totali. Poi i 5 ospedali della Piana di Gioia Tauro che forniscono prestazioni per 23 milioni ma riescono a avere un buco da 50 milioni di euro. E almeno i servizi fossero svizzeri, ahimè sappiamo che invece esiste anche il viaggio della speranza dal sud verso il nord per chi si deve curare, operare, soprattutto con interventi delicati, incredibile. Comunque, sentiamo il Presidente del Consiglio Berlusconi oggi sull'ipotesi di commissariamento della sanità calabrese. Voi in Calabria avete tutto, avete il mare, le montagne, i golfi, i parchi, è una regione straordinaria che naturalmente va sostenuta perché ci sono molti problemi che l'attanagliano. Per esempio io sto lavorando sul problema dei conti della sanità regionale e credo che sarà necessaria la decisione di un commissariamento da parte del governo. E questo avverrà nelle prossimissime settimane. Dura la replica del presidente della regione Calabria, Gazio Loiero, ha detto il presidente del consiglio che non si è mai occupato della Calabria se non per sottrarre fondi già assegnati, dirottarli al nord, in maniera stupefacente preannuncia per le prossimissime settimane il commissariamento della sanità. Ma sentiamo la voce di Loiero. Questa maniera indecente di intervenire nella campagna elettorale, dopo che loro hanno prodotto tutto questo debito in sanità e dopo che io ho voluto dimostrare che voglio invertire il percorso in sanità, farlo diventare virtuoso. Adesso mi spiego perché per 6 volte di seguito nell'ultimo mese e mezzo Sacconi ha attaccato solo la Calabria, come se le tragedie in sanità appartenessero solo alla Calabria. Non è così. Io dico che un fatto del genere sul piano istituzionale non lo avevo mai in passato visto. Ma nemmeno noi vogliamo prendercela solo con la Calabria, anche se Loiero avrà le sue ragioni politicamente parlando, ma il deficit di 2 miliardi resta lì come un macigno. Potremmo citare il comune di Roma, lo ha fatto il ministro Calderoli, per cui insomma, governo. Allora, al comune di Roma i costi per ogni bambino all'asilo nido, ogni bambino costa all'asilo nido 16.000 euro. A Modena, che non è diciamo una realtà con scarso senso civico, di solito è sempre in cima alle graduatorie, a Modena costa 7.000 euro. Calderoli con una battuta disse, beh, con questi costi al Comune di Roma conviene prendere una babysitter per ogni bambino, in effetti 16.000 euro l'anno ci si starebbe ampiamente dentro, ma immaginiamo anche qui che i bambini degli asili nido romani godono di parchi, giochi, insegnanti di sostegno, tutto come in Svizzera e sicuramente almeno il doppio quanto a servizio e qualità del cibo rispetto a Modena. Chissà che mense, con caviale e pesce raro. Vabbè, andiamo avanti perché non è finita. In Calabria, con massimo rispetto per i calabresi, ma insomma ci sono il doppio di TAC rispetto, in proporzione chiaramente, alla Lombardia. E poi la cosa strana è che il 60% di queste TAC però vengono fatte fuori dalla Calabria. Vado avanti, andiamo avanti perché sempre nella ASL di Reggio Calabria, che sta commissariata lì per infiltrazioni mafiose e adesso c'è un generale dei carabinieri, i costi dei servizi si sono ridotti del 50%, l'abbiamo già ricordato, non penso che a questo punto sia venuto meno il servizio sanitario, meno 50% i costi. Pensate che con debiti per 500 milioni di euro, io ogni volta che la leggo questa impazzisco, con debiti per 500 milioni di euro la ASL pagava per un pacco di cerotti da 20 euro 3.500 euro a bilancio, cerotti griffati, immaginiamo, no? Dai migliori stilisti. Sei nuovi camici servivano, ne hanno ordinati per essere previdenti, perché poi non si sa mai, meglio fare i centri di acquisto tutti assieme, 2.800. E non è nuovo questo caso, perché a Palermo, quando, da quando è arrivato l'amministratore giudiziario, il costo e il costo per la regione di alcuni servizi si è dimezzato. La TAC è passata da 128.000 a 9.000 euro, altro che dimezzato, e meno di un decimo in molti casi. Il ciclo di terapie per tumore alla prostata da 136.000 euro a bilancio a 8.000 euro. Saranno cambiate le prostate, cosa devo dire? Vabbè, allora parliamone seriamente per non piangere, perché questi sono 3 miliardi e mezzo che ballano ogni anno, con Paolo Del Bufalo del Sole 24 Ore. Paolo, buonasera. Buonasera, ciao. Restiamo in tema di Regione Calabria, ma non solo. Il dibattito politico non interessa questo programma, ma insomma, questo deficit, lasciamo stare anche l'infiltrazione dell'Andrangheta, della Camorra, della mafia, perché lì è un tema da magistratura, ma c'è una componente strutturale in questo deficit, cioè che al di là delle infiltrazioni della mafia e della criminalità organizzata, la struttura porti a creare deficit comunque? Assolutamente sì, il problema di questo deficit, di queste regioni, è che è proprio un deficit strutturale. Ti faccio un esempio molto banale per capire la differenza tra deficit strutturale e deficit casuale, chiamiamolo così. Un'epidemia di influenza inaspettata può portare una regione a spendere molto di più in farmaci di un certo tipo, in un certo tipo di assistenza, e può generare in qualche modo un deficit che però le regioni virtuose ripianano immediatamente con interventi anche a bilancio, diciamo, delle altre voci dei costi generali. Le regioni che non lo sono ci riescono molto meno, ma in queste regioni ci sono altri problemi. Hai fatto gli esempi migliori parlando appunto del personale in eccesso. Dico, ti farei anche un altro esempio molto banale che abbiamo tirato fuori proprio in questi giorni, che riguarda quello che tu hai citato della mobilità sanitaria. Esisteva in una regione, diciamo, tanto non succede niente, c'è una sentenza della Corte dei Conti in questo senso. In Abruzzo è stato condannato un DG di un'azienda sanitaria per aver importato da regioni limitrofe un eccesso di pazienti. Cosa accadeva? Molto semplicemente, si lasciava aperta la porta all'ingresso di pazienti da altre regioni, in particolare in questo caso dal Lazio. In Abruzzo si sono ricoverati oltre 7.000 pazienti che trovavano nelle case di cura abruzzesi prestazioni che il Lazio, per contenere i costi, non gli forniva. In questo modo evidentemente è sballato il bilancio della sanità abruzzese e la Regione Lazio ha avuto un bilancio, perché poi devono pagare a piedi lista le prestazioni usufruite in altre regioni, ha avuto dei costi altissimi in questo senso. È un problema strutturale, tant'è vero che gli scatti di aliquote, IRPEF, IRAP e tutti questo tipo di intervento, la stessa chiusura degli ospedali di cui si è parlato nel Lazio nei mesi scorsi, ma anche in altre regioni, il razionamento e il blocco delle assunzioni del personale, è la dimostrazione che bisogna agire su sistemi strutturali e non su una tantum. Non accettano i soldi messi dal bilancio regionale per coprire certi deficit, vogliono che queste coperture siano efficaci e siano protratte nel tempo e negli anni, e questo è il concetto del piano di rientro. Tra l'altro, un'ultima cosa velocissima, è vero che alcune regioni sembra abbiano un deficit relativamente basso, ma considera che il deficit del Molise, che pure sembra un pugno di milioni, così, sono quasi 200 euro pro capite ed è pressappoco quello della Campania, che c'ha 1,2 miliardi, capito? Sì, è vero, che perché uno dice 113 milioni è che è il Molise. È che c'è appunto. Cioè, sì, il mistero. Il mistero resta capire perché, per carità, vedo messaggi di ascoltatori. Allora, a parte il fatto che, per carità, ci sono regioni più virtuose da sempre di altre, ma insomma esiste anche la Puglia, esiste anche tutto il centro Italia, lì grossi problemi non ne vengono segnalati. Come gestione dei conti pubblici, non stiamo parlando della qualità del servizio, questo non possiamo farlo né in questo programma né comunque in generale come mezzo radiofonico, però io dico una cosa, cioè, è pensabile che non rubino, non ci siano degli sprechi in Lombardia, in Toscana, in Puglia, in Piemonte. Voglio dire, gli sprechi, le inefficienze, le disfunzioni in Veneto ci sono anche lì. Com'è che però, nonostante gli sprechi e le disfunzioni, lì si riesce a stare dentro i soldi pattuiti che dà lo Stato e dall'altra parte si sfora alla grande ogni anno? Guarda, è un discorso sempre di gestione, purtroppo, perché anche senza parlare di truffe e di raggiri di questi generi, qua ce ne sono, ma ci pensa la Guardia di Finanza a controllarli. Basta semplicemente che un ospedale stia nel posto sbagliato e funzioni con un ritmo di prestazioni eccezionalmente più basso di quelle che normalmente dovrebbe erogare, che è ecco fatto che genera disavanzo. Gli ospedali, sai benissimo, che non si chiudono con una facilità estrema, perché creano e hanno creato in precedenza sommosse popolari. Scusate, sono mosse popolari, perché chiunque vuole un ospedale sotto casa, ma non capisce che a volte è dannoso in certi casi. Molto spesso, molto spesso, perché un piccolo ospedale ha medici, lo dico non per il pronto soccorso, ci mancherebbe, un piccolo ospedale ha minori reparti, medici che hanno una preparazione delle volte inferiore, nel senso che non hanno la casistica, nulla contro i medici dei piccoli ospedali, ma non hanno i centri di specializzazione, non hanno la casistica che hanno i grandi ospedali. Insomma, la diagnostica si può fare nei piccoli centri, ma poi il resto si deve fare nei grandi ospedali. Però scusami, l'ospedale di Taulianova, ho capito che è difficile chiuderlo perché ha 18 posti letto e saranno fondamentali, ma come ha fatto ad avere 174 dipendenti? Cioè 10 per ogni posto letto? Perché purtroppo, ecco, qui viene un aspetto. Cioè qualcuno avrà una responsabilità su questo, chiedo. Certo, infatti ci sono anche dei procedimenti, delle responsabilità amministrative e contabile. Quello che ti ho detto prima io del DG dell'Abruzzo è un caso in cui è intervenuta la Corte dei Conti. Ma in questi casi ci sono purtroppo stati negli anni passati, e come ben sai la politica del personale è che a un certo punto è difficile licenziare una persona, o come è difficile abbassargli uno stipendio, e purtroppo nel pubblico soprattutto, evidentemente, purtroppo ci sono state una serie di assunzioni anche clientelari a volte, che in molte zone d'Italia hanno portato, ma non sempre per malafede, anche per una questione proprio di cattiva gestione, a queste situazioni. Questa di Taulianova è chiaramente un estremo e particolare, ma ce ne sono anche in altri posti, tant'è che il Lazio, che adesso sta avendo i risultati sul piano di rientro e incassando i fondi congelati dall'economia dopo i controlli che sono stati fatti sull'efficacia delle misure, aveva degli ospedali fuori, diciamo, dei parametri, senza dire appunto fuori legge perché non lo sono, li ha chiusi, li ha ristrutturati, li ha riconvertiti, ha dovuto affrontare una serie di problematiche, ma alla fine ce l'ha fatta e adesso sta incassando quello che gli avevano congelato. Quindi il Lazio ci insegna che se si vuole si può rientrare da un buco che era da 1,7 miliardi, non poca roba, si può rientrare da un buco aumentando l'IRPEF, questo prevede la legge, l'IRPEF locale e l'IRAP, quindi poi le aziende, le imprese del territorio la pagano due volte perché hanno un cattivo servizio e poi si scarica su di loro, ma vabbè, però si può rientrare dal buco. In una battuta, qual è la regione al di là della Calabria, che insomma mi sembra messa male, messa peggio tra Campania, Sicilia e Molise, visto che Abruzzo? Guarda, non sono io che lo dico, questi sono i conti e il tavolo di monitoraggio, che si chiama così, della spesa che c'è all'economia. Dopo, diciamo, la Calabria, che però è un caso che sta emergendo, quelle che sono più in odore di commissariamento e dovrebbe probabilmente arrivare a fine mese sono il Molise per prima e poi la Campania, perché la Sicilia pare che ce la stia facendo con quel maxi strutturazione dell'assistenza sanitaria che ha fatto. E che forse anche qualche peso da quello che leggiamo negli scontri interni alla regione Sicilia, perché poi la sanità, avete ragione a scrivere, significa tanti tanti soldi e tanti tanti appetiti della criminalità organizzata. Però di questo non potevamo parlare, occorrono indizi di reato, ipotesi di reato e appunto sentenze della magistratura. Della gestione deficitaria, fallimentare, allucinante di queste regioni quanto a spesa sanitaria, di quello possiamo parlare perché c'è un deficit appunto strutturale. Grazie a Paolo Del Bufalo. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non possiamo più restare sul tema della spesa sanitaria, ma appunto la notizia nuova è che anche la Calabria va verso un commissariamento, secondo quanto ha anticipato oggi il Presidente del Consiglio, e in effetti il deficit sfora i 2 miliardi di euro per la regione Calabria, dicevo la borsa, oggi con Wall Street e Londra chiuse, soprattutto l'assenza di Wall Street lascia le borse così, come dicono i tecnici, senza il faro americano. In realtà giornata moscetta, S&P MIB meno 0,2, MIBTEL meno 0,2, Parigi più 0,2, Francoforte invariata, euro a quota 1,40, non ci sono enormi, ogni tanto va anche bene così, enormi spunti di mercato, lo dico chi sta chiedendo di varie notizie sui titoli 349-238-6666. Vediamo qualche spunto più legato alla cronaca. Partiamo da Fiat, visto che abbiamo letto le varie agenzie, l'incontro cruciale di mercoledì tra tutti gli esponenti di chi ha avanzato le proposte, il governo tedesco, rappresentanti del governo americano, rappresentanti della GM, appunto Fiat e Magna in testa, e soprattutto domani l'incontro tra Marchionne e Angela Merkel, la cancelliera dello Stato tedesco. Il titolo come si è mosso? Lo chiedo ad Andrea Fontana, Radio Cori, sulle 24 ore. Buonasera. Buonasera. Beh, Fiat oggi nella generale debolezza è ancora arretrato, ha perso lo 0,9%, diciamo che gli investitori in questo momento sono alla finestra, diversi analisti vedono diciamo così la corsa di Fiat verso Opel ancora in salita, anche se c'è certamente da registrare rispetto alla fine della scorsa settimana indicazioni diciamo più equilibrate che vengono da parte delle autorità tedesche e di chi si sta occupando appunto dell'operazione Opel, più equilibrate rispetto alle prime indicazioni che davano appunto il gruppo austro-canadese Magna come il favorito d'obbligo. E comunque diciamo l'incertezza non ha certo fatto bene al titolo in una giornata in cui il settore auto è stato penalizzato anche da altri fattori, non solo la sospensione della produzione di impianto in Russia per quanto riguarda Ford, ma soprattutto le indicazioni arrivate da Porsche, che ha dovuto chiedere un prestito di 700 milioni di euro ottenuto da Volkswagen. Il titolo Porsche ha perso oltre il 3% a Francoforte, ne ha risentito anche Volkswagen, quindi un settore oggi piuttosto sottotono. E per cui non solo Fiat, ma anche Fiat che perde appunto anche leggermente più della media. Tra i titoli peggiori troviamo la Popolare di Milano, meno 3,1%, tra i migliori invece la Saipem, più 2,3%. In diretta, prima di arrivare al tema del petrolio, del consumo di energia in generale, dicevamo con Andrea Fontana, Saipem la migliore, più 2,3, e sul fronte opposto Popolare di Milano. Se riusciamo a tenere anche Geox, che è la seconda peggiore, meno 2,80, anche perché oggi Geox sta premiata da Mediobanca come media impresa dinamica, ha vinto il premio che riguarda il dinamismo delle medie imprese, per cui così, un po' strano. Prego. Sì, certamente per quanto riguarda Saipem è un buon recupero, anche se con volumi non intensi, dopo una settimana non fantastica per il settore. Saipem in particolare aveva perso l'1,6%, da ricordare che oggi il CDA di Saipem ha approvato la fusione per incorporazione di Snam Progetti Sud in Saipem, operazione che non avrà effetti patrimoniali e economici di particolare rilievo, ma che certamente semplifica l'assetto e aumenterà, almeno secondo la società, l'efficienza nella gestione delle attività. Tu ricordavi la brutta performance della Banca Popolare di Milano, che diciamo senza motivi specifici che riguardano l'istituto di Piazza Meda è stato il peggiore dei finanziari, ha perso oltre il 3%. Per quanto riguarda Geox, un po' di timore per quanto riguarda l'andamento dei consumi, il titolo ha perso il 2,8% questa mattina, appunto nell'appuntamento che tu ricordavi in Mediobanca durante la premiazione delle medie imprese dinamiche, l'amministratore delegato, il presidente Mario Moretti Polegato ha sottolineato come la società punti a mantenere un livello, un volume di vendite piatte nel 2009 rispetto al 2008, certamente il mercato non si aspetta grandi performance in un anno come questo, in un settore come quello di Geox, però certamente insomma, la previsione non ha entusiasmato gli operatori sul titolo. Ancora tra i titoli vediamo Mondadori -2,15, tra l'altro era molto cresciuto il titolo, ma oggi ci sono state alcune dichiarazioni dell'amministratore delegato Costa, che ha detto il trimestre è abbastanza difficile per la raccolta pubblicitaria. Le Campari -2,1, Fondiaria -2, Buzzunice -1,80, Ansaldo -1,5 come Monte dei Paschi, Snam -1,2, Italcementi -1%. Fronte opposto, Bulgari +1,80, Luxottica +1,30, Parmalat +1,20, Autogrill +1. Come stima Microelectronics, 0,6 lo guadagna Enel e 0,5 percentuale rialzo di A2A. Ancora i migliori, i peggiori, poi così concludiamo. Miglior titolo oggi Edes +26, Damiani +13, Risanamento +12. Peggior titolo, Exor -4, poi poco altro, veramente poco poco, Zucchi -3,30%. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore, una notizia appena battuta dalle agenzie che non mette, potrebbe rappresentare qualche difficoltà per la Fiat nella corsa su Opel. Secondo quanto pubblica il giornale, un quotidiano tedesco, Commerzbank, che è la banca in cui lo Stato ha, tedesco ha il 25, di cui lo Stato tedesco ha il 25%, il colosso bancario tedesco, sarebbe pronta a concedere a Magna, l'offerta quindi austro-canadese, un maxi credito a 4 miliardi se l'offerta del gruppo austro-canadese per Opel andasse in porto. No, più che altro al di là dell'offerta di credito, quella è roba, è roba loro e va benissimo così, è il fatto che Commerzbank insomma sia controllata forse eccessivo, ma sia ben partecipata dallo Stato tedesco, che non rappresenta un'ottima notizia forse per Fiat. Staremo a vedere, c'è tempo fino a mercoledì. Adesso restiamo in tema di mercati, ma mercati dell'energia. Parliamo di energia non solo per il prezzo del petrolio, che comunque resta sopra i 60 dollari al barile, 61 dollari al barile a New York, ampiamente sotto il record di luglio a 147, ma insomma a febbraio era a 33-34 dollari, quindi ha quasi raddoppiato il valore, parliamo di energia perché dal rapporto dell'International Energy Agency distribuito al G8 Energia, che si è tenuto sabato e domenica a Roma, è emerso che per la prima volta dal dopoguerra i consumi energetici globali saranno in flessione, la prima volta dal dopoguerra. E il 2009 si dovrebbe chiudere a -3,5% quanto a consumo di energia. E allora noi che non ci capiamo niente, però non capiamo come mai il petrolio sia raddoppiato negli ultimi mesi se le previsioni del più importante organismo, ossia l'Agenzia Internazionale per l'Energia, dicono per la prima volta da 50 e passa anni caleranno i consumi. Vediamo se ci aiuta una voce conosciuta a questi microfoni, ossia quella di Davide Tabarelli, che è responsabile, a parte che si occupa da sempre di energia, ma è presidente di Nomisma Energia. Dottor Tabarelli, buonasera. Buonasera. Allora, me la spiega questa banalmente, cioè i consumi di energia sono in calo ma il petrolio sale? Ma la prima spiegazione da fare è che il rapporto dell'agenzia è uno studio di lungo termine per i prossimi 20-30 anni, mentre i prezzi del petrolio variano nell'arco delle giornate, dei minuti. Però io 2009 è -3,5, Sì, quello è vero. Poi questo 2009 di caduta della domanda straordinario, e anche sul petrolio c'è un calo importante, 2,5 milioni di barili al giorno. Insomma, i fondamentali non spiegano questo prezzo del petrolio di 60, come ci dicevamo spesso un anno fa, è la finanza, è la spiegazione un po' più facile, poi ce ne sono delle altre, ma quella più facile è che tutta la liquidità messa dentro nel sistema bancario americano per aiutarlo fa fatica ad andare sull'economia reale, cioè sulle famiglie e sulle imprese, e pertanto rimane in queste banche di investimento, fra cui la principale è sempre la Goldman Sachs, e scommettono sul rialzo della borsa, perciò acquistano azioni, oppure sulla ripresa della domanda delle commodity, in particolare di petrolio, acquistano contratti futures, e questa è la ragione fondamentale dell'aumento. Poi però c'è anche uno straordinario calo di produzione dell'OPEC, che non è mai stata così aderente agli impegni e agli accordi. Sì, veramente io ci sto capendo sempre meno, perché Al-Naimi, che è il ministro del petrolio saudita, per cui insomma mica uno da ridere, ha detto: o si investe di nuovo oppure avremo un nuovo picco nel prezzo del petrolio. Però Lipsky, Fondo Monetario, dice: quanto rialzo il petrolio, peggio è passato. Se l'ENI, secondo gli studi presentati, dice che la fascia di prezzi ideale è tra i 60 e 70 dollari, in realtà quello che è emerso dal vertice è una visione anche un po' più bassa quanto a prezzo del petrolio. Per cui vorrei capire, insomma, le tendenze quali sono, Tabarelli, perché non riusciamo a capire se ci sia troppo poco petrolio con economia in crescita, oppure, come a noi risulta, l'economia stagnante 2009-2010 e il petrolio più che sufficiente. È che a me sembra che a tutti manchi quello che c'era l'anno scorso, cioè un timore di eccesso di domanda, perché l'economia globale andava a 2000, e pertanto adesso c'è il terrore che entriamo in una fase di recessione lunga e che la domanda rimarrà bassa a lungo. Poi effettivamente c'è anche il timore che gli investimenti non siano sufficienti nel lungo andare, ma era un periodo di tale euforia un anno fa che un po' manca a tutti questi decisori, analisti e anche produttori, ovviamente, un po' meno ai consumatori. E pertanto ci si ragiona su cosa bisogna fare adesso, se è veramente passato questo periodo, è stata solo una fiammata questi 150 dollari. Ecco, in realtà la domanda, se si riprende, speriamo presto, l'economia globale, tornerà a crescere anche la domanda di energia, perché non dobbiamo mai dimenticare, anzi proprio questo crollo ce lo ricordo, che crescita economica, vuol dire più sviluppo, si accompagna sempre più con più domanda di energia, e nonostante tutti i tentativi che stiamo facendo da 30 anni, questa energia sarà sempre in gran parte fossili, e all'interno dei fossili il principale rimarrà per molti anni il petrolio, e perciò da quali necessità di fare investimenti e garantire prezzi un po' più stabili intorno a 60, sì, 60. C'è poi una domanda che molti ascoltatori si pongono, ossia se, viste i rendimenti scarsi di altri investimenti, non stia tornando anche molta speculazione sui mercati del petrolio, ma insomma li vedremo, perché poi chi specula poi si piglia anche dei rischi. Grazie per ora al presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Le 18:11, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, chi ci chiede aggiornamenti sulla borsa, ricordo, oggi Wall Street è chiusa, quindi aggiornamenti non ce ne sono, è chiusa anche Londra per festività sempre, le borse europee hanno avuto variazioni non così, diciamo, clamorose, più 0,2 Parigi, invariata Francoforte, meno 0,2 Milano. Sui due indici, flessioni più consistenti per Popolare di Milano, meno 3,1, Geox meno 2,80, Atlantia meno 2,2 come Mondadori e Campari, guadagni più consistenti della media per Saipem più 2,3, Bulgari più 1,80, Luxottica più 1,30, Parmalat più 1,1, Autogrill più 1%. Abbiamo già parlato del botte e risposta tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Presidente della Regione Calabria Agazzi Loiero. Berlusconi ha annunciato a breve un commissariamento della sanità calabrese, la sanità abruzzese e laziale, lo dico chi ha scritto, è già stata commissariata, la Regione Sicilia dovrebbe evitare il commissariamento, quella campana probabilmente no, ma ne abbiamo parlato ampiamente nella prima ora del programma. E adesso ci occuperemo anche, dopo aver parlato di petrolio, perché non riusciamo a capire, e resta, lo dico chi scrive, il nostro dubbio tra una domanda mondiale di petrolio prevista dall'Agenzia Internazionale dell'Energia in calo per la prima volta, di petrolio, di energia, scusatemi, in calo per la prima volta dal dopoguerra, è un calo anche del 3%, rispetto a un prezzo del petrolio che ha rialzato la testa nelle ultime settimane. Non riusciamo a capire, ma evidentemente non ci arriviamo noi, il perché le due cose possono stare assieme. Sempre nel fine settimana non si è tenuto solo il G8 dell'energia a Roma, si è tenuto anche un'importante sessione dell'Aspen Institute, che riunisce a livello bipartisan, come si dice in gergo, quindi maggioranza, opposizione, centrodestra, centrosinistra, diversi esponenti della politica, il ministro Tremonti, il deputato Enrico Letta, ma non solo, della politica italiana, ma anche dell'economia, del mondo bancario, banchieri o ex banchieri centrali di vari paesi del mondo si sono trovati a Venezia per cercare di capire a che punto ci sia del guado in questa crisi finanziaria. Ne parleremo con uno dei partecipanti, perché l'Aspen è sempre a porte chiuse, quindi per avere le informazioni occorre anche ci farsi raccontare da chi era presente. Lo spunto, visto che si è parlato anche del rapporto banche-imprese, ce l'ha dato oggi di nuovo la Presidente di Confindustria, che a Varese, a margine dell'Assemblea degli Industriali, al microfono il nostro Stefano Totolo, ha invitato le banche a sostenere le imprese in difficoltà. Sono ancora troppe le aziende che sono in difficoltà, non riescono ad avere fidi, si vedono revocare i fidi, non riescono a scontare le fatture, pagano tassi troppo alti, quindi noi facciamo proprio un appello al sistema bancario perché sia vicino alle imprese, perché se non lo fa adesso noi rischiamo di perdere una parte del nostro sistema produttivo e questo avrebbe un costo enorme per tutta l'economia. Di nuovo in diretta dunque per cercare di capire da chi ha partecipato al convegno quale sia lo scenario, convegno Aspen di Venezia venerdì e sabato, quale sia lo scenario emerso, ci colleghiamo con il professor Bernardo Bortolotti, che è direzione della Fondazione ENI Enrico Mattei. Buonasera professore. Buonasera. Lei era uno dei partecipanti a questo convegno che si è tenuto a Venezia, all'Aspen, organizzato dall'Aspen Institute, e tra l'altro voi avete anche sviluppato come Fondazione ENI Enrico Mattei il primo rapporto annuale sui fondi sovrani. I fondi sovrani sono quei fondi che investono in pezzi di industria di vari paesi o di grandi gruppi industriali, ma hanno la provenienza da uno Stato, ecco perché si chiamano sovrani. Sono i fondi degli Stati, Abu Dhabi piuttosto che Dubai, ma non solo, anche Singapore e altri. E abbiamo visto infatti in questi anni, in questi mesi, grandi operazioni dei fondi sovrani. Partiamo dall'Aspen di Venezia. Abbiamo letto insomma che c'è stato un po' di preoccupazione tra i vari banchieri, ministri, economisti, ex banchieri, sul rischio che i tassi così bassi e la ripresa della borsa così, diciamo, forte possa generare una bolla, una mini bolla speculativa. Cioè il denaro costa così poco, questo è il ragionamento che abbiamo letto, quindi il rischio reale che in molti paesi avanzati le banche, invece che utilizzare questo denaro per creare nuovi posti di lavoro, per aiutare le imprese, per sostenere la domanda, lo girano in investimenti, da lì il rischio bolla. Sì, devo dire che effettivamente nell'ultimo trimestre si è osservato un leggero miglioramento, abbiamo intravisto un po' di luce sui mercati finanziari, le emissioni obbligazionarie sono riprese, però io anche alla luce anche di quello che è stato effettivamente poi detto ad Aspen, i rischi di una bolla non li vedo, almeno non vedo questo rischio dietro l'angolo. Mi sembra che stia emergendo un consenso che la crisi non è affatto finita, abbiamo forse evitato il collasso, l'Armageddon finanziario forse l'abbiamo dietro le nostre spalle, ma ancora la situazione davanti a noi è estremamente fragile su tanti fronti, quindi la bolla, il ritorno di una bolla speculativa magari può esserci, non lo escludo, però questo rischio mi sembra inferiore rispetto a altri rischi più sul piano dell'economia reale che abbiamo probabilmente davanti a noi, soprattutto con la ripresa dopo l'estate. Quindi forse anche un po' di forzatura giornalistica, come si dice nei titoli, nelle relazioni che abbiamo letto su questo incontro a Venezia dell'Aspen Institute, quello per far capire a tutti in cui c'è stata anche una comunanza di interessi, sempre secondo quello che abbiamo letto tra Tremonti e Prodi, non di interessi ma proprio anche di analisi della situazione. Se in realtà il rischio bolla non è stato così forte come poi invece sui giornali è apparso, perché lei dice tanto la crisi è ancora lunga, quindi la bolla si genera quando la crisi è mai passata e i tassi sono troppo bassi, il denaro costa troppo poco. Ci può confermare, per quello che è possibile, che invece anche all'Aspen è emersa una minor propensione, per essere buoni, a far scorrere da parte delle banche credito verso le imprese, e da lì anche una difficoltà delle imprese in generale a vendere, nel caso italiano, prodotti all'estero? Abbiamo anche affrontato questo tema, effettivamente i segnali che si hanno sono piuttosto negativi su quel fronte. La premessa è che nessuno ha la verità rivelata e ci si muove comunque in un momento molto critico dove qualunque tipo di previsione è molto difficile, però sembra vero che effettivamente nonostante questi interventi così massicci, questi impegni che gli stati su più fronti si sono presi per aiutare le banche, non abbiano ancora determinato degli effetti reali su una reale risoluzione del credit crunch, quindi le imprese effettivamente ancora oggi soffrono. Il problema sembra essere che se da un lato all'inizio la crisi finanziaria si riversa sull'economia reale, quindi l'economia reale soffre, può capitare che la crisi reale dell'economia reale abbia una seconda battuta, una seconda andata di nuovo sul mercato finanziario una volta che effettivamente le imprese cominciano a chiudere o effettivamente il consumo si contrae ulteriormente. Quindi è vero, questi rischi ci sono, le misure sono importanti, ma ancora siamo in una situazione molto fragile e molto difficile, anche sul fronte del credito. Perché è sembrato di capire che se alcuni banchieri importanti, non so, sui giornali veniva citato Alessandro Profumo, fanno notare come quasi un'impresa su quattro cui loro forniscono credito è in perdita, però insomma non ci sia stato questo travaso che invece i governi hanno chiesto e anche le banche centrali hanno chiesto, ossia noi abbassiamo il costo del denaro per le banche, garantiamo liquidità sul mercato alle banche in modo che si tornino a prestare soldi, comunque possono utilizzare anche le garanzie degli stati, però le banche devono girarli sull'economia, chiaramente non investendoli in imprese che hanno altri problemi strutturali e quindi salterebbero tra virgolette comunque, ma in quelle imprese che hanno difficoltà solo o principalmente dovute a una crisi che, ricordiamolo, è nata nel mondo della finanza e non nel mondo dell'economia. Questo ce lo può confermare? Sì, sì, assolutamente. Queste sono le intenzioni e gli obiettivi dichiarati sono assolutamente questi. Il problema è vederne le conseguenze e gli effetti reali. Questi ancora non si sono manifestati, perché alle banche è richiesto oggi di ritornare a fare le banche, a fare quello che devono fare, cioè prendere a prestito a breve in qualche modo dai depositanti o dalle varie forme di finanziamento bancario e rimettersi a finanziare le imprese. Un mestiere antico, il mestiere della banca antica, però il problema è che in questi anni le banche hanno fatto anche altri mestieri, quindi devono ritornare al classico, a un classico che è difficile perché alcune competenze non ci sono più. È chiaro che quando il ciclo tira questa esigenza c'è di meno. Ora bisogna essere selettivi nelle linee di credito, bisogna riaprire tutta un'attività estremamente selettiva che richiede competenze che sicuramente ci sono, però devono essere forse valorizzate a brevissimo termine per poter uscire da questo credit crunch che è molto problematico. Sì, alcune banche hanno fatto principalmente altro, cioè si sono messe a investire nella parte finanziaria, nella finanziarizzazione in maniera spinta, penso a tutti i prodotti derivati, tossici, strutturati, cartolarizzati, chiamateli come volete, e come lei faceva notare anche noi abbiamo avuto il sospetto che delle volte in questi anni sia venuta meno non dico la competenza tecnica ma la struttura che una volta invece era la struttura principale di una banca, ossia chi sapeva valutare come erogare credito, conosceva le aziende nel dettaglio, le aveva seguite, per cui le competenze tecniche in questo senso sì, perché tu non puoi erogare credito a chi diciamo non è in grado di ridartelo, questo sarebbe follia, ma devi anche avere le competenze interne per sapere come valutare chi ti chiede credito, la solidità di questa impresa nei prossimi anni, in prospettiva. Ecco, delle volte se tu ti sei distratto su altro, forse hai perso competenze interne. Professor Bortolotti, tra l'altro, lei ha fatto notare, se ho ben capito, che gli investimenti fatti dai governi nell'ultimo anno, governi, tutti i governi, banche eccetera, valgono meno di tutti i guadagni dalle privatizzazioni dal 1970 a oggi in tutto il mondo? Dunque, nella discussione, e non solo la nostra tavola rotonda sul sistema finanziario globale, ma anche altre tavole rotonde Aspen, è emersa la questione del ritorno prepotente degli stati nell'economia, ma come un fattore importante, come un fattore anche di rischio. È evidente che la situazione della crisi era talmente seria che era necessario un intervento anche straordinario, un impegno straordinario immediato dello Stato su più fronti, però forse non si è pensato che un intervento dello Stato a 360 gradi, sia sul fronte delle ricapitalizzazioni bancarie, sia sul fronte della possibilità di attribuire o lavorare con garanzie implicite e esplicite, sempre sul settore finanziario, combinate allo stimolo fiscale, insomma determina un'espansione tale del settore pubblico nelle sue varie forme che ha implicazioni importanti, soprattutto perché quello che accade, almeno quello che è accaduto, è una trasformazione del rischio di credito, cioè del rischio dentro le banche, dentro il sistema finanziario, al rischio sovrano, cioè al rischio di potenziale, non dico default, ma problemi sul fronte del rifinanziamento del debito pubblico. Su questo sfondo io ho buttato là nella discussione questo numero, che è un numero abbastanza interessante, cioè se noi confrontiamo il controvalore delle privatizzazioni globali dal 1970 a oggi, il controvalore è circa 1.5 trilioni di dollari, quindi 1.500 miliardi di dollari, che è meno di un quarto di quanto gli stati nell'ultimo anno hanno impegnato nel salvataggio delle banche. Questo per dare l'idea dell'ordine di grandezza dell'inversione. Sì, lì il problema è anche quando rientreranno questi soldi. Comunque l'ordine di grandezza è incredibile, cioè quello che gli stati hanno guadagnato privatizzando pezzi di industria e anche banche nel caso italiano è pari a circa 1.500 miliardi di dollari, mentre quello che gli stati hanno messo in questo anno per salvare, per garantire la ciambella di salvataggio al sistema finanziario e non solo, è quattro volte tanto, cioè siamo nell'ordine dei 6.000 miliardi di dollari. Questo la dice lunga, come in un anno si sia speso quattro volte quello che si è speso, o si sono date garanzie per quattro volte quello che si è guadagnato in 30 e passa anni privatizzando. Un'ultima domanda: voi nel vostro rapporto sui fondi sovrani, sui fondi appunto che sono emanazione di stati, che hanno molto preoccupato, no? Si diceva attenzione, adesso i paesi dell'OPEC, i paesi che col petrodollari si comprano pezzi di industria, abbiamo visto Abu Dhabi comprarsi Citigroup, la Norvegia anche lei entrare, Singapore pure nelle banche americane, ma non solo. Voi avete scoperto che però la crisi economica ha colpito anche i fondi sovrani. Quanto hanno perso diciamo nel 2008? Dunque, dai nostri calcoli risulta che i fondi sovrani globali hanno complessivamente perso all'incirca 55 miliardi di dollari sui loro investimenti iniziali. Il numero è abbastanza impressionante, ma ancora più impressionante è poi studiarne, come dire, andare più nel dettaglio, cioè con analisi un pochino più raffinate che ci fanno vedere quanto hanno perso questi fondi rispetto a quanto tutti abbiamo più o meno perso o quanti altri fondi hanno perso sui mercati. Ebbene, il dato che salta fuori è che i fondi sovrani non sono uno sbagliato investimento investendo nel settore principalmente finanziario, ma hanno sbagliato due volte, cioè anche all'interno di quel settore sono andato proprio a prendere quelle società che sono andate peggio. La sintesi è che alla fine anche rispetto a un investimento in società di quel settore i fondi sovrani hanno perso oltre il 15% in più, cioè non è una questione di ciclo che tutti vanno male per cui anche i fondi sovrani hanno perso, è che i fondi sovrani hanno perso due volte. E questo è interessante, ci fa, bisogna capire anche perché. La congettura che noi avanziamo è che effettivamente questi fondi sovrani siano in qualche modo l'azionista ideale, lontano, passivo e quindi in qualche modo l'azionista preferito per un management che vuole continuare a vivere una vita tranquilla. E quindi delle volte anche perdono più degli altri perché sono meno incisivi degli altri, ecco, si comportano in maniera meno pressante rispetto ad altri fondi. Beh, interessante, perché li abbiamo sempre visti come un pericolo, una minaccia, poi scopriamo che per carità possono essere anche da un punto di vista geopolitico un elemento di instabilità, avere un paese estero che entra in maniera massiccia in quote della tua impresa, delle tue banche soprattutto. Anche loro ci hanno rimesso, e non poco, più degli altri con questa crisi. Grazie al professor Bernardo Bortolotti, direttore della Fondazione Mattei. Grazie a voi, buona serata. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. A voi in ascolto, una buona serata.